Ventinovesima traccia. Tuttavia, ora voglio distruggere tutto, ed è mio particolare desiderio di farlo in vostra presenza, perché voi vediate come sono divenuta ragionevole. Non riuscite a indovinare che cosa contiene questo pacchetto? Essa chiese con uno sguardo di consapevolezza. Assolutamente non ci riesco. Vi ha mai dato qualcosa? No. Doni non posso chiamarli, ma sono cose che io ho tenuto in gran conto. Le mostrò il pacchetto ed Emma ci lesse sopra le parole: preziosissimi tesori. La sua curiosità fu vivamente stimolata. Harriet disfece il pacchetto ed Emma attese con impazienza. Tra una gran quantità di stagnola c'era una graziosa scatoletta intarsiata di Tunbridge Wells, che Harriet aprì, ed era foderata dell'ovatta più fine, ma oltre all'ovatta Emma vide soltanto un pezzettino di taffetà inglese. Ora, disse Harriet, dovete ricordarvi. No, davvero non me ne ricordo. Dio mio, non avrei creduto possibile che avreste dimenticato ciò che accadde proprio in questa camera a proposito del taffetà. Una delle ultime volte che ci siamo incontrati qui. Fu solo pochi giorni prima che io avessi il mal di gola, poco prima che arrivassero Mr. e Mrs. Knightley, credo proprio quella sera. Non mi ricordate che lui si fece un taglio a un dito col vostro temperino nuovo e che voi raccomandaste del taffetà? Ma siccome voi non ne avevate indosso e sapevate che ne avevo io, mi pregaste di darglielo. E così lo presi fuori e ne tagliai un pezzetto, ma era troppo grande e lui lo tagliò e seguitò a gingillarsi un po' di tempo con l'avanzo prima di restituirmelo. E così io, nella mia scempiaggine, non potei fare a meno di considerarlo un tesoro. Così lo misi da parte per non usarlo mai, e di tanto in tanto era per me una festa darci un'occhiata. Harriet, cara, esclamò Emma, coprendosi il volto con la mano e saltando su. Mi fate vergognare di me stessa più di quanto non possa tollerare. Se me ne ricordo? Sì, ora mi ricordo di tutto, eccetto che voi metteste da parte questa reliquia. Questo non l'ho saputo che adesso, ma il taglio al dito e il mio raccomandare del taffetà e il dire di non averlo io stessa. Oh, i miei peccati, e in tasca ce ne avevo tante. Uno dei miei assurdi stratagemmi. Merito di rimanere in perpetuo rossore per il resto della vita. Ebbene, sedendosi di nuovo, proseguite, che altro c'è? E davvero ne avevate voi stessa portata di mano? Davvero io non l'ho mai sospettato, lo faceste con tanta naturalezza. E così avete addirittura messo da parte questo pezzetto di taffetà per amor suo, disse Emma, riavendosi dal suo stato di vergogna e sentendosi divisa tra la meraviglia e l'ilarità. E in segreto aggiunse tra sé e sé: Dio m'assista, quando mai avrei pensato a mettere da parte tra l'ovatta un pezzo di taffetà con cui si fosse gingillato Frank Churchill? A tal punto non sono arrivata mai. Ecco qui, riprese Harriet, tornando alla scatoletta, ecco qui una cosa più preziosa ancora, perché questa una volta ha appartenuto davvero a lui, mentre questo non era il caso del taffetà. Emma bramava di vedere questo tesoro superiore. Era il mozzicone d'un vecchio lapis, la parte senza grafite. Questo era realmente suo, disse Harriet. Non vi ricordate di una mattina? No, scommetto di no. Ma una mattina non ricordo esattamente il giorno. Ma forse era il martedì o il mercoledì prima di quella sera. Egli voleva prendere una nota sul suo taccuino, era a proposito della birra d'abete rosso. Mr. Knightley gli aveva detto qualcosa intorno alla fabbricazione della birra d'abete e lui voleva prenderne nota. Ma quando tirò fuori il lapis, c'era rimasto tanto poco piombino che presto egli ebbe finito di tagliarlo e non servì più, sicché volle ne prestarsi un altro. Questo fu lasciato sulla tavola come inservibile, ma io non lo persi d'occhio e appena potei usare lo raccolsi ed allora non me ne sono più separata. «Me ne ricordo», esclamò Emma. «Me ne ricordo perfettamente. Si parlava della birra d'abete rosso». «Oh sì, Mr. Knight e io dicevamo entrambi che ci piaceva, e Mr. Elton sembrava deciso a imparare ad apprezzarla. Me ne ricordo perfettamente». «Un momento, Mr. Knight stava in piedi proprio in questo punto, no?» «Ho idea che stesse proprio qui». «Ah, non so, non posso rammentarmi. È molto strano, ma non posso rammentarmi. Mr. Elton stava seduto qui, mi ricordo, presso poco dove sono io ora». «Ebbene, proseguite». «Oh, è tutto. Non ho altro da mostrarvi o da dirvi, se non che getterò tutte e due le cose nel fuoco e desidero che voi mi vediate farlo». «Mia povera Harriet, e avete davvero provato felicità nel far tesoro di codeste cose?» «Sì, da quella sciocca che ero, ma ora me ne vergogno proprio e vorrei poter dimenticare con la stessa facilità che c'è a bruciarle. Ho avuto molto torto, sapete, a serbare dei ricordi dopo che lui si è sposato. So di averlo avuto, ma non avevo abbastanza risoluzione per separarmi da essi». «Ma Harriet, è necessario bruciare il taffetà? Non ho una parola da dire per il pezzetto di vecchio lapis, ma il taffetà potrebbe essere utile». «Sarò più contenta se lo brucio», rispose Harriet. «La sua vista mi riesce spiacevole. Devo sbarazzarmi di tutto». «Ecco, è andato. È finito, grazie al cielo. Elton è finito». «E quando, pensò Emma, comincerà Mr. Churchill?» Poco dopo ebbe ragione di credere che si fosse già un principio e fu indotta a sperare che la zingara, sebbene non avesse detto la fortuna di Harriet, l'avesse effettivamente fatta. Circa 2 settimane dopo lo spavento ebbero una sufficiente spiegazione e del tutto casualmente. Emma non pensava alla cosa in quel momento e questo rese più preziosa l'informazione che ricevette. Essa disse soltanto, nel corso di una conversazione insignificante: «Ebbene, Harriet, quando vi sposerete vi consiglierei di fare così e così», e non ci pensava già più quando, dopo un minuto di silenzio, udì Harriet dire in tono serio serio: «Non mi sposerò mai». Allora Emma la guardò in faccia e immediatamente vide di che si trattava. E dopo un momento d'esitazione, se far finta di niente oppure no, rispose: «Non sposarsi mai. Questa è una nuova risoluzione». «Sì, ma è una risoluzione che non muterò mai». E, dopo un'altra breve esitazione: «Spero che non provenga da... spero che non sia un complimento a Mr. Elton». «Ma che Mr. Elton?» esclamò Harriet con sdegno. «Oh no!» Ed Emma poté afferrare appena le parole: «Tanto superiore a Mr. Elton». Allora prese un po' più di tempo per riflettere. Doveva fermarsi lì? Doveva lasciar correre o far finta di nulla? Forse Harriet avrebbe potuto crederla fredda o adirata se l'avesse fatto. O forse, se fosse rimasta zitta, ciò avrebbe potuto solo indurre Harriet a chiederle di ascoltare troppo. Ed essa era decisamente contraria a un'espansività come c'era stata, a una discussione aperta e frequente di speranze e di probabilità. Essa credette che sarebbe stato più saggio dire e sapere subito tutto ciò che intendeva dire e sapere. La lealtà era sempre il miglior partito. Aveva deciso già da prima fino a che punto sarebbe arrivata in un caso simile. E sarebbe stato meglio per entrambe che lei dichiarasse subito la legge giudiziosa della propria mente. Era decisa e così parlò: «Harriet, non farò finta di dubitare su quel che volete dire. La vostra risoluzione, o piuttosto supposizione di non sposarvi mai, viene dall'idea che la persona su cui potrebbe fissarsi la vostra scelta sarebbe troppo al di sopra di voi socialmente per pensare a voi. Non è così?» «Oh, Miss Woodhouse, credetemi, non ho la presunzione di supporre, davvero non sono pazza fino a questo punto, ma per me è un piacere ammirarlo a distanza e pensare alla sua infinita superiorità su tutto il resto del mondo. con la gratitudine, la meraviglia e la venerazione che sono così appropriate, specialmente da parte mia. Non sono affatto sorpresa di voi, Abbot, il servizio che egli vi ha reso bastava per scaldare il vostro cuore. Servizio. Oh, le parole non bastano a dire quanto sono obbligata. Il solo ricordo della cosa e di tutto ciò che provai in quel momento, quando lo vidi venire, il suo nobile aspetto, la mia infelicità prima, che cambiamento, dalla più completa disperazione alla più completa felicità. È molto naturale, è naturale e vi fa onore. Sì, vi fa onore, io credo, di scegliere così bene e con tanta gratitudine. Ma che sia una preferenza destinata ad avere successo è più di quanto io possa promettere. Non vi consiglio di darvi libero corso, Harriet. Non vi garantisco affatto che sia ricambiata. Pensate a ciò che fate. Forse la cosa più saggia per voi sarebbe di reprimere i vostri sentimenti finché potete. In ogni modo, non fatevi trasportare troppo in là da essi, a meno che non siate persuase di piacergli. Osservatelo bene, che la sua condotta sia la guida del vostro sentire. Vi do ora questo avvertimento, perché non tornerò più su questo tema. Ho deciso di non intromettermi più. Da questo momento è come se io non sapessi nulla. Non fatevi mai uscire dalle labbra un nome. Abbiamo avuto molto torto prima. Adesso saremo cauti. Egli è certo al di sopra di voi e mi pare che ci siano obiezioni e ostacoli di natura assai grave. Eppure, Harriet, sono successe cose anche più meravigliose. Ci sono stati matrimoni di una disparità ancora più grande. Ma state bene attenta a voi stessa. Non vorrei che foste troppo ottimista, sebbene, comunque finisca, state pur certa che aver innalzato a lui i vostri pensieri è un segno di buon gusto che saprò sempre apprezzare. Harriet le baciò la mano con gratitudine silenziosa e sottomessa. Emma non aveva dubbi mentre pensava che un tale attaccamento non fosse una cosa cattiva per la sua amica. Avrebbe contribuito a innalzare e a raffinare l'anima di lei e l'avrebbe salvata dal pericolo di cadere in basso. In mezzo a questi progetti e speranze e a questa connivenza si iniziò a Hartfield il mese di giugno. Highbury in generale non apportò sostanziali cambiamenti. Gli Elton parlavano ancora di una visita da parte dei Suckling e dell'uso che avrebbero fatto del loro landò scoperto. E Jane Fairfax si trovava ancora presso la nonna. E siccome il ritorno dei Campbell dall'Irlanda era stato ancora ritardato e fissato per il mese d'agosto invece della fine di giugno, Jane sarebbe probabilmente rimasta là 2 mesi buoni, ove almeno fosse riuscita a render vana l'attività di Mrs. Elton in suo favore e a scampare dal venir controvoglia collocata in fretta e furia in un posto delizioso. Mr. Knightley, che per qualche ragione che sapeva lui solo, aveva certo provato fin da principio antipatia per Frank Churchill, lo trovava sempre più antipatico. Cominciò a sospettarlo di duplicità nel suo corteggiamento di Emma. Che Emma fosse l'oggetto delle sue premure appariva indiscutibile. Ogni cosa lo proclamava, le sue attenzioni, gli accenni di suo padre, il cauto silenzio della madrina, tutto s'accordava, parole, condotta, discrezione e indiscrezione, tutto narrava la stessa storia. Ma mentre tanti lo vedevano ai piedi di Emma, ed Emma stessa lo trasferiva a Harriet, Mr. Knightley cominciò a sospettare che avesse qualche inclinazione a far l'asino con Jane Fairfax. Egli non riusciva a capirlo. Ma tra loro due c'erano sintomi che si intendessero, così almeno egli pensava, sintomi d'ammirazione da parte di lui, e una volta che li ebbe osservati, egli non poté persuadersi a pensarli interamente privi di significato, per quanto egli desiderasse di evitare un errore come quelli in cui Emma era caduta per via della sua fantasia. Essa non era presente quando sorse dapprima il sospetto. Egli pranzava con la famiglia di Randalls e con Jane dagli Elton e aveva visto uno sguardo, e più di uno sguardo, diretto a Miss Fairfax, che, venendo dall'ammiratore di Miss Woodhouse, sembrava alquanto fuori posto. Quando si trovò di nuovo in loro compagnia, non poté fare a meno di ricordare ciò che aveva visto, né poté evitare osservazioni che, a meno che non fosse un caso come quello di Cooper e del suo fuoco al crepuscolo, io stesso creavo ciò che vedevo, lo indussero in un sospetto ancor più forte che vi fosse un po' di segreta simpatia, perfino di segreta intesa, tra Frank Churchill e Jane. Un giorno dopo pranzo si era recato a piedi a Arfield per passarvi la sera, come soleva fare spesso. Emma e Harriet stavano per fare una passeggiata. Egli si unì a loro e, al ritorno, si imbatterono in una comitiva più numerosa di persone che, come loro, ritenevano più prudente far la loro passeggiata di buon'ora, poiché minacciava di piovere. Mr. e Mrs. Weston e il loro figlio, Miss Bates e sua nipote, che si erano incontrati per caso. S'unirono insieme e, giunti che furono al cancello di Arti, Emma, che sapeva che questa era la specie di visita che sarebbe riuscita gradita a suo padre, li sollecitò tutti a entrare e a prendere il tè con lui. I Weston acconsentirono immediatamente e dopo un discorso piuttosto lunghetto di Miss Bates, che pochi ascoltarono, anch'essa trovò che era possibile accettare il cortesissimo invito della cara Miss Woodhouse. Mentre stavano entrando nel parco, passò Mr. Perry a cavallo. I signori si misero a parlare del suo cavallo. A proposito, fece dopo un po' Frank Churchill a Mr. Weston, che ne è del progetto di Mr. Perry di metter su carrozza? Mrs. Weston apparve sorpresa e disse: non sapevo che avesse un progetto simile. Ma se l'ho preso da voi, me ne parlaste 3 mesi fa. Impossibile, ma vi assicuro, me ne ricordo perfettamente. Ne parlavate come di cosa senz'altro prossima. Mrs. Perry l'aveva detto a qualcuno e ne era lietissima. Era stata lei a persuadere Mr. Perry, poiché riteneva che stare fuori col tempo cattivo gli facesse molto male. Ve ne ricordate ora? Parola d'onore, è la prima volta che ne sento parlare. Questa è bella, santo cielo, come può essere? Allora devo essermelo sognato, ma ne ero proprio convinto. Miss Smith, camminate come se foste stanca. Non vi dispiacerà di trovarvi a casa. Che cos'è? Esclamò Mr. Weston. Questa faccenda circa Perry e la carrozza. Perry mette su carrozza. Sono lieto che possa permetterselo. L'avete sentito da lui stesso? No, babbo, rispose il figliolo ridendo. E pare che io non l'abbia sentito da nessuno. È proprio strana. Io ero persuaso davvero che Mrs. Weston ne avesse parlato in una delle sue lettere a Enscombe poche settimane fa, con tutti quei particolari, ma siccome lei dichiara di non averne sentito sillaba prima, naturalmente deve essere stato un sogno. Io sono un gran sognatore. Io sogno di tutte le persone di Highbury allorché sono lontano, e quando ho finito di sognare dei miei amici personali, comincio a sognare di Mr. e Mrs. Perry. Però è strano, osservò suo padre, che tu debba avere avuto un sogno così coerente intorno a persone a cui non era verosimile che tu pensassi a Enscombe. Perry che mette su carrozza. E sua moglie che lo persuade a farlo preoccupata per la sua salute. Proprio quel che accadrà, non ne dubito una volta o l'altra. Solo che la notizia è un po' prematura. Che aria di probabilità hanno talvolta i sogni? E tal'altra che mucchio d'assurdità sono essi? Ebbene, Frank, il tuo sogno mostra certamente che tu pensi a Highbury quando ne sei assente. Emma, voi siete una gran sognatrice, credo. Emma non sentì. Era corsa innanzi ai suoi ospiti per preparare il padre alla loro apparizione. E l'accenno di Mr. Weston non poté giungere alle sue orecchie. Ebbene, a dir la verità, esclamò Miss Bates, che invano aveva cercato di farsi ascoltare negli ultimi 2 minuti. Se debbo parlare su questo punto, non si può negare che Mr. Frank Churchill potrebbe avere, non voglio dire che egli non lo sognasse. Sono sicura di aver io stessa qualche volta i sogni più strani del mondo. Ma se si chiedesse a me, dovrei riconoscere che la primavera scorsa è stata ventilata un'idea simile, perché Mrs. Perry medesima ne parlò a mia madre, e i Cole lo sapevano non meno di noi, ma era proprio un segreto, noto a nessun altro, e a cui si pensò soltanto per 3 giorni. Mrs. Perry desiderava assai che egli avesse una carrozza, e una mattina venne da mia madre tutta allegra, perché credeva di averla avuta vinta. «Jane, non ti ricordi che ce ne parlò la nonna quando tornammo a casa?» «Non mi ricordo dove eravamo andate, probabilmente a Randolph.» «Sì, credo che fosse a Randolph.» «Mrs. Perry ha sempre voluto bene a mia madre.» «Davvero, non so chi non gliene voglia.» E ne fece parola con lei in confidenza. Non aveva niente in contrario, naturalmente, che lo riferisse a noi, ma non doveva diffondersi oltre. E da quel giorno fino ad oggi io non ho fiatato. Al tempo stesso non negherò positivamente di aver lasciato mai cadere un accenno, perché so che talvolta mi scappa di bocca una cosa prima che io me ne accorga. Sono una chiacchierona, sapete. Sono piuttosto una chiacchierona, e di tanto in tanto mi sono lasciata sfuggire qualcosa che non avrei dovuto. Non sono come Jane, vorrei poterlo essere. Garantisco che lei non ha mai lasciato traperare la più piccola cosa. Dov'è Jane? Ah, proprio qui dietro. Mi ricordo perfettamente quando venne Mrs. Perry, un sogno davvero straordinario. Stavano entrando nell'atrio. Gli occhi di Mr. Knightley avevano preceduto quelli di Miss Bates nel fissarsi su Jane. Dalla faccia di Frank Churchill, dove credette di scorgere una confusione soppressa o dissipata dal riso, si era involontariamente volto a quello di Jane. Ma essa era rimasta davvero indietro e troppo occupata col suo scialle. Mr. Weston era entrato. I due altri signori attendevano alla porta per lasciarla passare. Mr. Knightley sospettava in Frank Churchill la decisione di attirare lo sguardo di Jane. Egli sembrava osservarla fissamente, tuttavia invano, se era così. Jane passò tra di loro ed entrò nell'atrio, senza guardare né l'uno né l'altro. Non ci fu tempo per altre osservazioni o spiegazioni. Ci si doveva accontentare che si trattasse di un sogno, e Mr. Knightley dovette prender posto con gli altri intorno alla gran tavola tonda moderna che Emma aveva introdotto a Arvin e che nessun altro che Emma avrebbe avuto il potere di collocare là e di persuadere il padre ad usarla invece della tavola di Pembroke, di piccole proporzioni, sulla quale erano stati stipati per 40 anni 2 dei suoi pasti giornalieri. L'ora del tè passò piacevolmente e nessuno sembrava aver fretta di partire. «Miss Woodhouse», disse Frank Churchill, dopo aver esaminato una tavola dietro di lui, a cui egli poteva arrivare pure restando seduto, «i vostri nipoti hanno portato via i loro alfabeti, la loro scatola di lettere? Di solito stava lì. Dov'è?» «Questa è una serata grigia, che dovrebbe essere trattata più come inverno che come estate. Una mattina ci divertimmo assai con quelle lettere. Voglio farvi indovinare di nuovo.» A Emma piacque l'idea, e tirata fuori la scatola, ben presto la tavola fu disseminata di lettere alfabetiche, che nessuno sembrava tanto disposto a usare quanto loro due. Rapidamente formavano parole l'uno per l'altra, o per chiunque altro volesse buttarsi a indovinare. La calma del gioco lo rendeva particolarmente accetto a Mr. Woodhouse, che spesso era stato disturbato da giochi più animati, introdotti di tanto in tanto da Mr. Weston, e che ora sedeva felicemente occupato a lamentarsi, con tenera melanconia, sulla partenza dei poveri ragazzini, o a indicare affettuosamente, mentre raccoglieva qualche lettera, che era andata a finire vicino a lui, come l'avesse scritta bene Emma. Frank Churchill mise una parola sotto gli occhi di Miss Fairfax. Essa dette un'occhiata intorno alla tavola e poi ci si applicò. Frank sedeva accanto ad Emma, Jane di faccia a loro e Mr. Knightley era collocato in modo da poterli vedere tutti. Il suo scopo era di vedere quanto più poteva, pur senza farne le viste. La parola fu scoperta e allontanata con un leggero sorriso. Se l'idea era di mescolarla immediatamente con le altre e seppellirla agli sguardi, Jane avrebbe dovuto guardare sulla tavola invece che davanti a sé, perché non si mescolò. E Harriet, che stava allerta per ogni parola nuova, non trovandone alcuna, raccolse subito quella e si mise al lavoro. Sedeva accanto a Mr. Knightley e si volse a lui per aiuto. La parola era abbaglio, e mentre Harriet la proclamava esultando, si diffuse sulla guancia di Jane un rossore che le diede un significato altrimenti non evidente. Mr. Knightley la connesse col sogno, ma come questo potesse essere era al di là della sua comprensione. Come potevano essere state messe così a dormire la delicatezza, la discrezione della sua favorita? Egli temeva che ci dovesse essere un intrigo preciso. A ogni piè sospinto incontrava simulazione e duplicità. Quelle lettere non erano che veicoli di galanteria e di inganno. Era un gioco da ragazzi, scelto per nascondere un gioco più profondo da parte di Frank Churchill. Continuò a osservarlo con grande indignazione e a osservare con grande allarme e diffidenza anche le sue due compagne accecate. Vide una parola breve preparata per Emma e data a lei con uno sguardo scaltro e dimessa. Vide che Emma non tardò a interpretarla e la trovò molto divertente, sebbene fosse una cosa che essa giudicava appropriato fingere di censurare. Perché disse: «Che sciocchezza, che vergogna!» Udì poi Frank Churchill dire con un'occhiata dalla parte di Jane: «La do a lei, che dite?» E altrettanto chiaramente udì Emma opporsi con calore accompagnato da riso: «No, no, non dovete, non lo farete davvero!» Tuttavia fu fatto. Questo giovanotto galante, che sembrava amare senza sentire e raccomandarsi senza sforzare di piacere, porse senz'altro la parola a Miss Fairfax e, con un grado particolare di composta cortesia, la pregò di studiarla. L'eccessiva curiosità di Mr. Knightley di sapere quali potesse essere quella parola gli fece cogliere ogni qualunque istante da gettarvi sopra gli occhi, sicché non tardò molto a vedere che era Dixon. La percezione di Jane Fairfax sembrò andare di pari passi con la sua. La sua comprensione fu certamente più all'altezza del significato occulto, dell'informazione recondita, di quelle cinque lettere così disposte. Jane rimase evidentemente indispettita. Alzò gli occhi e, vedendosi osservata, arrossì in modo più acceso di quanto non l'avesse mai veduta fare, e dicendo solo: «Non sapevo che fossero consentiti i nomi propri», allontanò le lettere perfino con stizza e prese un'aria come se non volesse più occuparsi di altre parole che potessero venire presentate. Torse il volto da coloro che erano mossi all'attacco e si volse verso la zia.